Questa ottava di Pasqua che viviamo è come un grande giorno in cui stiamo cercando di immergerci, come facciamo nel battesimo, nella verità di Cristo risorto. Ed è una verità che deve, così importante per la nostra vita, che deve proprio calare dentro la nostra anima. Cristo è risorto, no? Gesù, tu sei presente e vivo e abiti in mezzo a noi, no? e abiti in noi. E allora è molto bello che la Chiesa, è molto saggio, no? Che la Chiesa prolunghi questo giorno per 8 giorni e poi dopo tutto il tempo pasquale per stare con Cristo risorto come stavano con lui i suoi discepoli. E noi siamo aiutati dalla liturgia di un giorno a soffermarci su Gesù risorto, e oggi leggeremo nella messa il racconto di San Marco, quello successivo, no, alla risurrezione, quello in cui che qualcuno ritiene appunto un'aggiunta successiva. E che dice così: risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a 2 di loro mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Io pensavo, leggendo questo Vangelo di San Marco che oggi è proposto per la messa, mi tornano in mente anche quelle altre parole di San Marco che abbiamo letto durante la veglia pasquale, e poi magari le rileggiamo. E mi veniva in mente che è sorprendente e bello che i quattro evangelisti, i 3 sinottici e San Giovanni, raccontino questi episodi della risurrezione in modo un po' diverso l'uno dall'altro. E ci saranno molte spiegazioni, no? Il fatto che questi episodi sono stati così forti, così che sono stati recepiti in modo diverso, oppure la memoria anche col tempo si ferma su alcuni particolari e ne dimentica altri, oppure ancora il fatto che ogni evangelista sottolinea alcuni aspetti anche per il suo fine, come dire, teologico o anche di insegnamento, no? che ha. Per esempio San Marco, lo vedete dal Vangelo di oggi, che mette in evidenza la mancanza di fede dei discepoli. Lui riflette il racconto di San Pietro, il quale evidentemente metteva in evidenza che loro non avevano creduto alle donne e neanche ai 2 di Emmaus. Quindi questo è una realtà che, in un certo senso, che ci consola, perché pensate proprio loro, che devono essere le colonne della Chiesa, ecco, gli apostoli su cui il Signore, appunto, a cui affida in modo particolare la sua Chiesa, non credono. E sono altri, e sono le donne, per esempio, che invece credono e che sono chiamate ad essere apostole degli apostoli. E qualcuno forse un po' scherzando, anzi mi ricordo che era una donna che me lo diceva, certo Gesù ha fatto bene ad affidarsi alle donne per questa notizia così importante, per essere sicuro che arrivasse subito e rapidamente, no? Ha avuto una buona idea. In effetti è proprio così, vedete gli apostoli come sono lenti, come sono titubanti, invece le donne sono rapide, pronte, e ecco, in questo bisogna che appunto le donne siano sempre così, nella rapidità e nella gioia di trasmettere i messaggi del Signore, e soprattutto questo messaggio centrale, no? Vi ricordate che il Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium ci dice che a volte noi ci perdiamo in messaggi secondari, no? Quando portiamo il messaggio del Vangelo, invece bisogna tornare all'essenziale, e il kerigma è proprio questo, cioè il primo annuncio: Gesù è risorto, no? È Gesù che è Dio, è il figlio di Dio fatto uomo, è risorto e vivo, e questo è il primo annuncio. E pensate che anche a noi vale, e anche per noi vale questo, anche per persone che vivono una vita di fede anche da più tempo, che seguono il Signore con una vocazione specifica, che vivono la vita della Chiesa in modo così, ecco, che frequentano la messa quotidiana, anche per noi vale, anche noi abbiamo bisogno di ricevere questo annuncio: guarda che Cristo è risorto. Pensate se questo non può essere per noi, anche dirlo a noi stessi, ma anche dirlo affettuosamente, delicatamente, a una persona che ha un momento di difficoltà. Cristo è risorto, e fra l'altro è molto bello sapere che la nostra salvezza sta nel corpo risorto di Cristo, no? In un uomo che è morto per noi, per dimostrarci il suo amore infinito, e per noi è tornato alla vita, ha vinto persino la morte, che è l'ultimo nemico, no? Secondo San Paolo. E quindi anche la morte non ci deve più fare paura in Cristo. E così è molto bello considerare che la nostra fede, che il cristianesimo non è un'idea, non è una filosofia, non è neanche una morale, ma è una persona. È la persona di Gesù alla quale noi vogliamo, che vogliamo incontrare continuamente, che vogliamo, con il quale vogliamo stare. Ci vogliamo lasciare toccare dal suo corpo, che ci passa la sua grazia, il suo amore, la sua forza, che ci guarisce e che ci dona il suo amore, che ci abbraccia e anche che ci viene incontro. Pensate a quella scena che leggevamo ieri, ecco, nel nostro lavoro, vedi che non abbiamo preso nulla tutta la notte e addirittura lui non solo ci aiuta e può dall'oggi al domani, da adesso a 5 minuti, insomma, cambiare tutta la prospettiva, perché quella pesca è miracolosa e non solo, ma poi ci prepara anche la colazione. C'è un teologo che ha scritto un librettino, anche pensando in una collana di libri per preparare l'Expo di Milano, e è un libro che si intitola Gesù Cuoco, no? e che medita proprio su tanti passi del Vangelo in cui lui parla della cucina, insomma, e in particolare su questo passo in cui lui cucina, ecco, il pesce e prepara il pane per i suoi discepoli. Quindi, ecco, vi dicevo che questo Vangelo di Marco che leggiamo oggi mi faceva tornare in mente il Vangelo di Marco che abbiamo letto invece nella veglia pasquale, che narra proprio i primi momenti della risurrezione di Gesù. Leggevamo così, no? Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono gli oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto alla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Essi uscirono e fuggirono via dal sepolcro perché erano pieni di spavento e di stupore e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. Ecco, il Vangelo della veglia pasquale si fermava prima del loro fuggire ed essere pieni di paura. Vi dicevo prima che appunto si nota che i particolari sono un po' diversi nei vari evangelisti. Per esempio, secondo San Luca, le donne che seguono Gesù preparano gli oli il venerdì sera, prima del tramonto del sole, e poi al mattino del primo giorno dopo il sabato corrono al sepolcro. Invece qui, secondo il racconto del Vangelo di Marco, si legge: passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo, e di buon mattino vennero al sepolcro a levare del sole. A me colpiva di questa scena, nella veglia pasquale pensavo che abbiamo letto 7 brani della scrittura, tutti molto belli, dell'Antico Testamento, poi il brano di San Paolo sul battesimo, della lettera ai Romani, e poi questo Vangelo, no? E pensavo, ecco, Gesù risorto è veramente il culmine, il punto d'arrivo di tutta la storia della salvezza. Avremmo potuto leggere tutto l'Antico Testamento, perché tutto alla fine ha un senso, acquista il suo significato più profondo nella risurrezione di Gesù. Invece noi abbiamo, ovviamente, ecco, in quella veglia lunga ma bellissima, abbiamo letto 7 brani. E pensate, in quei 7 brani ci si dice, la liturgia della Chiesa e la Bibbia ci dice che ogni realtà della nostra vita viene illuminata da Cristo risorto. Pensate, il primo era la Genesi, quindi la creazione di tutte le cose, e poi la creazione dell'uomo e della donna. E vuol dire che veramente Cristo risorto dà senso a tutta la creazione. Tutto è stato creato per mezzo di Lui e in vista di Lui, dice San Paolo, ogni cosa. Quindi noi veramente possiamo chiedere allo Spirito Santo la grazia di vedere in ogni cosa Cristo risorto, anche in ogni realtà creata o in ogni realtà della creazione che noi abbiamo trasformato col nostro lavoro. E soprattutto nell'uomo e nella donna, il fatto che, ecco, Gesù sia vero uomo, nato da donna, significa che la nostra natura umana ormai per sempre è stata ripresa, no, non solo creata da Dio, ma assunta da lui e quindi ha un valore divino. Tutta la nostra natura umana, tutto ciò che siamo, è la nostra anima che e il nostro corpo che sono una cosa unita, no? Una cosa, un'unica realtà, fusa, e noi abbiamo un corpo spirituale e un'anima corporale che sta in un corpo. Tutte le nostre facoltà, l'intelligenza, la volontà, i sentimenti, le emozioni, e la memoria, tutta la nostra affettività, tutto il nostro ingegno, tutte le nostre capacità, la nostra capacità di lavorare, tutto questo è stato preso da Dio, non solo creato da Dio, ma preso da Dio, e poi con la resurrezione ormai per sempre è vivo insieme a Lui. E quindi Gesù Cristo, che incarnandosi si è unito in un certo senso ad ogni uomo, pensate adesso con la resurrezione come è unito a ciascuno di noi e come abita in noi, in ciascuno di noi e nella Chiesa. Pensate che i medievali dicevano che il corpo, cioè la presenza reale di Cristo, quella che noi giustamente diciamo essere nell'Eucaristia, in realtà è nella Chiesa, e dicevano dell'Eucaristia che era il corpo mistico, che poi dopo, ecco, col tempo si sono un po' cambiate. Noi segnaliamo presenza reale, quando diciamo presenza reale intendiamo nell'Eucaristia, Gesù sta nell'Eucaristia e il suo corpo mistico è la Chiesa. Loro dicevano esattamente il contrario, ma sono tutte e due cose vere. È molto bello che ritenessero che la presenza reale di Cristo sta nella Chiesa. Questo, secondo me, è il senso profondo del fatto che Gesù incontra Maria Maddalena e le dice: vai dai miei fratelli. Perché? E poi quando mi immagino lei, evidentemente con quella sorpresa piena di gioia, si lancia a toccare il suo corpo risorto, ad abbracciarlo, a rendersi conto, come Tommaso, no, che veramente è lui, e a fargli festa, e lui dice: adesso però non mi trattenere, vai dai miei fratelli. Ma perché dai miei fratelli mi trovi? E infatti lei quella sera, insieme con le altre donne, lo trova lì, perché entra nel cenacolo a porte chiuse. Gesù, tu Gesù, aiutaci a vederti non solo nelle cose create, ma anche tra i nostri fratelli, presente e vivo, e dentro di noi, che ti riceviamo ogni giorno nell'Eucaristia, e quindi sei una sola cosa con noi, con ciascuno di noi, abiti nel nostro cuore come tu ci hai promesso. Prenderò dimora presso di lui, no? Chi mangia la mia carne, beve il mio sangue. Poi nella notte di Pasqua, appunto, abbiamo letto la storia di Abramo. Questo significa che la resurrezione di Gesù illumina tutta la nostra storia personale, tutta la nostra vocazione. E anche in quei passi della nostra storia in cui siamo chiamati a fare come Abramo, e siamo chiamati da Dio a fare il sacrificio di Abramo, ad offrire a Gesù, al Signore che ci ha chiamati, magari le cose più care, no? E in quell'offrire Isacco di Abramo è nascosto il sacrificio di Gesù sulla croce, no? Sul monte, e nel fatto che l'angelo lo ferma, ecco, è adombrata, diciamo così, la resurrezione di Gesù, perché poi il figlio muore ma poi risorge. E a noi il Signore a volte chiede di fare il sacrificio di Abramo, nel senso di offrirgli quello che abbiamo di più caro e che è anche legato alle promesse che ci ha fatto il Signore. E lui ce lo chiede per poi restituircelo moltiplicato. Cioè, come dire, ci dice ancora una volta: tu sei mia, tu sei mio. ti ho chiamato e ti ho redento e ti ho chiamato per nome, tu sei mio. E quindi se tu mi ridoni quei doni stessi che io ti ho dato, io li benedico ancora di più, li moltiplico ed entro nella tua vita in modo potente. Così anche poi leggevamo la storia di Israele esiliato in Egitto, che poi viene salvato dal Signore attraverso il passaggio del Mar Rosso, e in questo vediamo che anche la resurrezione di Gesù vince anche a livello, come dire, collettivo. Quindi anche quando in questi tempi noi vediamo tante situazioni di guerra, di sofferenza, di esilio, di persecuzione, dobbiamo pensare alla fine Gesù vince. Certo, alla fine il popolo di Israele è rimasto 400 anni là, per cui in effetti dobbiamo sapere che a volte il Signore ci fa un po' aspettare 400 anni. Le nostre richieste di preghiera possono durare a lungo. E sapete anche come ci fa aspettare? Ci fa aspettare, per esempio, anche per vederlo risorto. No? Avete notato questo, che nella notte di Pasqua leggiamo il Vangelo di Marco, ma non vediamo Gesù risorto. Vediamo solo il sepolcro vuoto. E dopo, quando le donne vanno via dal sepolcro, che Gesù si fa incontro a loro, secondo il racconto di San Matteo, ecco, secondo quello che leggiamo oggi di San Marco, anche il Vangelo di Giovanni, che dice che Maria Maddalena è andata là e ha visto il sepolcro vuoto e si è disperata perché pensava che avessero rubato il corpo del Signore, quindi torna dai discepoli, poi torna con loro e poi rimane ancora lì a piangere perché loro se ne vanno tutti perplessi e non badano a lei. E allora Gesù va incontro a lei, ma è sempre un po' dopo. E quindi possiamo chiedere al Signore: come mai fai così? E forse vuole prepararci, forse vuole che si rafforzi la nostra fede, comunque sicuramente è una cosa ben fatta da parte sua, che ci deve portare a non scoraggiarci se non lo incontriamo subito, se non lo vediamo, se facciamo fatica. Lui c'è, è presente, anche se non lo vediamo, anche se non si lascia vedere. In fondo, nel Cantico dei Cantici, quando la sposa si accorge che lo sposo è scomparso e lo va a cercare, no, per le vie e le piazze della città, è nascosto qualcosa di questo mistero del rapporto del Signore con noi. E a volte, quando appunto non si fa vedere, è perché vuole che lo incontriamo nei nostri fratelli, nelle nostre sorelle. A me colpiva del Vangelo di San Marco, letto nella veglia, questa unità tra queste tre donne. Qui sono tre, in un altro Vangelo sono solo due, in Matteo e in Luca invece sono le donne in generale che seguivano Gesù fin dall'inizio, che queste tre donne sono unite. È molto bello vedere anche che due di loro sono mamme di apostoli, Maria, madre di Giacomo, e Salome, che pare che sia proprio la mamma di Giacomo e di Giovanni. Per cui si vede che tra quelli che seguono Gesù c'è questa grande, anche sequela, possiamo dire così, familiare, no? I genitori sono coinvolti, stanno con le mamme, le madri, seguono i figli e stanno sicuramente anche con la Madonna, stanno vicini a Gesù e agli altri, li aiutano e li spingono, li incoraggiano, in questo caso hanno più forza, più fede, più amore, più slancio, non hanno paura. Sono unite e l'essere unite le aiuta. Fanno tantissime cose che le aiutano poi a trovare Gesù. Pensate, sicuramente si alzano molto presto, poi comprano questi oli, poi vanno di buon mattino alle ore del sole, poi si confidano tra di loro il possibile problema, però questo confidarsi non le porta a fermarsi. C'è una difficoltà, ma vanno lo stesso, e questo li aiuterà a scoprire che la difficoltà è già risolta, no? Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? E poi fanno un'azione che noi dobbiamo imparare a fare, e chiediamo al Signore che ci aiuti: alzano lo sguardo. Se fossero rimaste con lo sguardo per terra, guardando dove mettono i piedi, non avrebbero visto la pietra ribaltata. È quello che noi dobbiamo fare a volte, alzare lo sguardo quando vediamo una difficoltà presente, qualcosa. Dobbiamo alzare lo sguardo verso il sepolcro vuoto e vedere che la pietra è stata ribaltata via, e pensare: tu, Signore, sei risorto, tu sei il vittorioso, sei la vittoria, tu vinci, e io mi aggrappo a te e insieme con te mi sento vittorioso anche della difficoltà presente. Poi entrano nel sepolcro, all'inizio non hanno paura, hanno paura solo perché c'è l'angelo, e loro capiscono che è una presenza soprannaturale, e allora nella loro cultura religiosa c'era il timore di morire quando si vedeva Dio o un angelo di Dio. Però proprio per questo l'angelo dice loro: non abbiate paura, e gli dice di andare dai discepoli, e loro fuggono, ma in questo, secondo alcuni evangelisti, in questo tornare verso i discepoli, finalmente Gesù si fa vedere, no? A me piace anche annotare che tu Gesù hai la capacità più grande possibile di relazione. Tu sai incontrare Maria Maddalena da sola, poi i due di Emmaus, quindi anche il gruppettino di due o tre, e poi gli undici, e poi i 500, di cui parla San Paolo. E noi desideriamo incontrarti personalmente, e quando siamo riuniti in due o tre nel tuo nome a fare qualunque tipo di lavoro, di riunione, di dialogo, di anche di festa, di vita familiare, di gioco, e anche vogliamo incontrarti quando siamo tutti riuniti, quando siamo nella famiglia riunita, quando siamo nella chiesa, no? Vediamo, ecco, tu sempre sei presente, e in modo particolare pensiamo che la Madonna ci può aiutare, lei che è stata la prima a vederti risorto, e chiediamo alla Madonna che Gesù risorto sia molto presente nella nostra vita e illumini la nostra storia personale, le nostre giornate, la nostra quotidianità e tutta la vita degli uomini.